prima giornata del vertice G8 a Genova e seconda giornata di protesta da parte dei manifestanti. Oggi le azioni di disobbedienza civile saranno realizzate in modo pacifico. Il camioncello carabinieri distrutto, sono fiamme, qualcuno ha buttato qualcosa, all'acceso, c'è un fumo nero. Per questo che tenteremo di stabilire quella linea di comunicazione per creare con le organizzazioni della protesta un modo liberismo compassionevole, questo è un po' l'esercizio qui. La notizia appena arrivata è che in testa al corteo delle tette bianche c'è stata una carica della polizia. È la giornata dell'assedio al vertice degli otto grandi che si sono ingabbiati dietro chilometri. Si trova in piazza Alimonda e qui si ripetono fughe vertiginose, velocissime. Per far comprendere che in gran parte i loro obiettivi sono altri, no? Sono gli obiettivi che sono non so dire, posso dire, cioè io ho visto il carabiniere dentro la Jeep, ecco, questo, la cosa che mi rimane impressa è che, la visione del carabiniere nella Jeep che si è girato. Cioè, i capelli neri ho visto, questo qua, sì. Ho visto il carabiniere con la pistola in mano. Però sono confuso perché è un momento di grande confusione. Cioè, ho visto che lui si è girato con la pistola in mano, l'ha puntata e ha sparato a bruciapelo praticamente. Poi intorno a me ho sentito alle mie spalle qualcuno che gridava no! E poi l'ho visto. Si è creato un vuoto nella piazza e subito dopo sono avanzati i carabinieri che hanno circondato il corpo. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama te veo tan triste, Pachamama me pongo a llorar. Por el suelo hay la esperando la última ola, cuida que no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita te invito a bailar. Por el suelo, baila verdorada. Por el suelo, yo no la sembré. Camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita te vamos a matar. Por el...